Eccoci qui, Volo Pindarico numero 2. Dunque, avete settato la testina a regola d'arte con una dima? Avete controllato l'anti-skating? Avete regolato il braccio con una bilancina di precisione, preferibilmente della Shure? Bene, allora accendete l'amplificatore, che spero sia un Marantz color oro. Alzate lentamente la teca del giradischi. Impugnate delicatamente con indice e pollice il braccio all'estremità. Effettuate un leggero movimento verso sinistra. Il piatto inizierà a roteare. Lo stroboscopio si illuminerà come una pista d'atterraggio di notte. Fissate per qualche istante la puntina. Guardatela scintillare come il più raro dei diamanti. Lasciatela planare dolcemente sul disco e let the record go, my birds. Could show. Tra fumanti macerie industriali si aggirano fantasmi e zombie digitali con gli occhi ai cristalli liquidi e il cuore di silicio. In questo inferno il traghettatore di anima è lei, Nika Danilova, meglio conosciuta come Zola Jesus. Dunque preparatevi a un viaggio dantesco. Ecco a voi Zola Jesus con Rester. E a seguire vedremo la nostra moderna Caronte prendere le sembianze della madre Nyx, la dea notte, per Night. Thank you. uno dei più terribili gridi di smarrimento e di impotenza mai ascoltati nella musica rock. Crisi di identità e delirio. I'm caught in a jangle, vines tangle my hands, I have a gun in my head, I'm invisible. Per arrivare al finale che chiama riscatto e vendetta. They can no longer move, I can no longer be still. Ecco a voi il capolavoro di Christine Hersh con i suoi Throwing Muses. Il pezzo è Hate My Way per Alessia. I could be a smack freak and hate society. I could hate God and blame death. Una volta avviato, un moto perpetuo non smetterà di girare da sé e le prospettive di arrestarlo, già incerte data la natura del congegno, vengono ulteriormente ridotte dalla sorprendente capacità che questa particolare versione del meccanismo autoalimentato dimostra di assorbire e assimilare le tensioni e le frizioni che esso stesso genera, per poi utilizzarle a proprio favore. Esso riesce infatti a volgere a proprio vantaggio la domanda di soccorso o di cura generata da tali tensioni, sfruttandola come una sorta di carburante ad alto rendimento che ne mantiene a regime i motori. Questo scrive Zygmunt Bauman, e Bob Dylan, col suo tipico piglio profetico, aveva già predetto nel 1989 il nostro mondo liquido moderno. It's all a stacked deck, diceva, è tutto un mazzo di carte ammucchiato. A poco finisci nel mezzo, ma non sei mai sicuro del perché ti ci trovi. Appena sveglio viene addestrato a prendere quella che sembra la facile via d'uscita. A voi Bob Dylan, questa è Political World. La musica giovanile immette nel tempo puro che disintegra il mondo reale, perché essa in un qualche modo è un gesto dell'impietà che redime dal tempo ordinato della successione dei giorni. Queste sono parole di Umberto Galimberti e sono sicuro che Thurston Moore le sottoscriverebbe in pieno. Lui che ha trovato l'elisir dell'eterna giovinezza nel flusso elettrico secreto dalla sua chitarra. A voi, Maratona Sonic Youth, Teenage Riot e due cover d'eccezione, Computer Age, saluto al maestro Neil Young, e Into the Groove, che scimmiotta la bella Lady Ciccone. Ma si parte, è proprio il caso di dirlo, a razzo, a voi, Silver Rocket. Can't stop it. A burning hole in your pocket. Thank you.

Un giorno Karl Marx imbranciò una chitarra elettrica e si rincarnò in un giovane punk inglese. Billy Bragg è stato per tutti gli anni Ottanta una spina nel fianco per la Lady di Ferro Margaret Thatcher, fervente sostenitore della working class britannica, protagonista di tante battaglie nel nome del socialismo. Between the Wars è il suo brano manifesto, è un inno all'orgoglio operaio. Ho fatto il minatore, poi lo scaricatore, poi ancora il ferroviere. In tempi di austerità ho tirato su una famiglia col sudore della fronte, lavorando alla fonderia. A voi Billy Bragg con Between the Wars, ma la partenza è a vele spiegate con The Milkman of Human Kindness, Billy Bragg. Bye. between the wars. Call up the craftsman, bring me the draftsman, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars. I punk dicono, noi suoniamo veloce e distorto, e allora, ecco, a me piace quel "e allora", questo è quanto dichiarò una volta un certo Frank Zappa. In arrivo per voi una cassa di dinamite spedita direttamente dal Regno Unito. In sequenza, Adverts con Bored Teenagers e New Boys, i Larkers con Shadow, gli X-Ray Specs con Hope Bondage Up Yours, e a chiudere il cerchio sarà lo stesso Frank Zappa con Apostrophe. We're jumping into corners, finding ways to fill the vacuum. And no one has a drive, it's only hope to hear something new. Tides over the tracks, thank you. Think little girls should be seen and not heard, but I think. Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Bye.

da Let the Record Go dei Minor Birds ad Apostrophe di Frank Zappa, volo pindarico numero 2.